E allora 18:31, buonasera a tutte e a tutti. Buonasera. Sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Onda Rossa. anzi 18:32 per la precisione. E questa è Profondo Rosa, trasmissione sulla scena LGBTQ e storie di vita e boh, non so che cos'altro quest'anno, visto che insomma stiamo un po' dilagando di qua e di là. Anche non scena LGBT, non storie di vita. Diciamo che quello che resta fisso è il punto di vista, che è quello non eterosessuale obbligatorio. Ok, allora la trasmissione non eterosessuale obbligatoria. Sì, sì, ci piace. Allora, innanzitutto un po' di contatti: www.ondarossa.info, il sito di internet della radio, dove trovate anche le nostre trasmissioni, oltre che sul blog quando lo aggiorneremo, che comunque è sempre profondorosa.onoblogs.org. Vi ricordo pure un po' di cose, visto che Onda Rossa non campa d'aria, ma campa soprattutto grazie alle vostre sottoscrizioni, perché appunto è soprattutto la vostra di radio, ovvero la radio di chi se la sente. Il conto corrente postale è il 6180 4001, da intestare a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma, oppure appunto dal sito www.ondarossa.info cliccando su sostieni o qualcosa del genere. E abbiamo anche una mail, che è profondorosa@ondarossa.info. Insomma, ci fa piacere ricevere qualche feedback se ce lo mandate, quindi fatelo. Ricordiamo anche, anche se chi ci ascolta già lo sa, che è uscita la Scarceranda 2013, che la potete trovare qui in radio, e a tutte le iniziative di movimento. E a questo proposito, come dire, salutiamo i compagni e le compagne del CSOA Fabri di Fabriano, che sono venuti qua a prendersi parecchie copie. Frattempo proviamo a risolvere qua la questione microfono, vediamo un po', prova un po'. Eccomi. Mo te sento benissimo, bene. E ricordiamo nuovamente, insomma è stato già detto durante il corso della giornata, credo, che il presidio antifascista contro il corteo di Casa Pound di sabato 24 novembre si terrà a Piazza dell'Esquilino, quindi insomma in questi giorni sono stati un po' di vari cambiamenti di programma, comunque questo è il definitivo così punto di incontro del presidio, Piazza dell'Esquilino alle 14:30, se non ricordo male. E allora entriamo un po' nel vivo degli argomenti di questa settimana, che sono un po' la continuazione di quanto cominciato ad analizzare con la scorsa puntata di Profondo Rosa, che è stata anche la prima, insomma, di questo nuovo ciclo di trasmissioni 2012-2013. Abbiamo così pensato che fosse importante ed interessante provare a riflettere un po' sul corpo e sulla sua dimensione di luogo di potere, di campo di forze all'interno del quale appunto saperi e poteri si intersecano e così si vanno ad incontrare, vanno a costituire in qualche modo il corpo, sia per come lo conosciamo attraverso, insomma, il sapere sul corpo al di fuori, diciamo, come cultura del corpo, come luogo investito da vari poteri e varie così tentativi di controllo, di laminazione o di educazione, e dall'altra parte un corpo per come dovremmo conoscerlo dal punto di vista così un po' più autodeterminato, autogestito, qualche cosa che dovrebbe partire soprattutto la nostra esperienza personale e collettiva, quindi attraverso i nostri organi di così aggancio col mondo, i nostri sensi, tutto ciò che contribuisce così alla percezione dell'esistenza e anche alla, così appunto, all'esperienza dell'esistere stesso. Abbiamo pensato così di cominciare questo discorso su corpo e potere a partire proprio da delle situazioni abbastanza, se vogliamo, banali e scandalistiche, che sono quelle che hanno costellato un po' i giornali, i media mainstream negli ultimi 2 o 3 anni. In particolare ci siamo soffermati la scorsa volta sulle situazioni che hanno coinvolto la giunta Polverini negli ultimi paio di mesi, quindi da quando sono apparse, insomma, sui giornali le situazioni scandalistiche che poi hanno portato, diciamo, alle dimissioni della giunta e adesso, insomma, al convocare probabilmente di nuove elezioni, e che sono comunque nate, anche se nel frattempo ce lo siamo dimenticato, fondamentalmente degli scandali che hanno a che fare appunto con col rapporto fra sessualità e potere. Sì, diciamo che siamo partiti da delle immagini che è, come dire, anche piuttosto inconsueto per radio partire da delle immagini, ma sono immagini che almeno un paio di mesi fa tutti e tutte avevamo negli occhi, e cioè quelle del party organizzato da De Romanis, mi pare capogruppo del PDL in regione, quel party organizzato, diciamo, in vesti di antichi romani, antichi greci, non si capisce nemmeno bene. Quello... forse un po' tutte e due, una cosa rimanda un po' all'altra, forse più antichi romani, comunque vabbè. Poi sì, le divinità, però lui, il come dire, il signore intorno a cui si costruiva questa scena, dice che era vestito da Ulisse, quindi c'è una mescolanza fra mitologia greco-romana, dai. Esatto, e comunque, insomma, per chi non lo ricordasse, sono quelli dove poi c'erano le persone vestite da maiali, ecco, e tutta una serie di veline, di modelli, eccetera, o perlomeno, insomma, gente si proponeva in questo modo, vestiti con toghe oppure abitini corti, eccetera. Siamo partiti da qui, insomma, da queste immagini di questo party a cui poi venne fuori che aveva partecipato anche la Polverini, c'erano le immagini, eccetera, in cui sostanzialmente si vedeva una scena, diciamo, che alludeva un po' a un baccanale, a un festino orgiastico, e abbiamo provato a analizzare queste immagini partendo, insomma, dalla prima impressione, che è quella di immagini comunque in cui non si scatena l'eros, il corpo non c'è. E diciamo che partendo da queste immagini abbiamo visto come il binomio sesso potere in queste immagini si mostrava, si dipanava senza uscire, diciamo, dalla tradizione che ci immaginiamo rispetto a sesso e potere, nel senso che le immagini erano quelli di corpi giovani suppostamente belli, immagini in cui il sesso femminile era in posizioni di subalternità rispetto a quello maschile, sicuramente un immaginario tutto eterosessuale in cui tutto ciò che esce dalla norma eterosessuale non è nemmeno immaginabile, se non diciamo quello che viene chiamato lesboporno, insomma l'utilizzo di immagini pornografiche in cui ci sono solo attrici femminili ma in evidente, in evidente attesa di un maschio, insomma delle immagini piuttosto misere, spicciole, ecco, anche da, da questo punto di vista. Sì, cosa che spesso è un classico così da inizio di pornografia, di film porno, cose varie. E quindi diciamo un immaginario che è vecchio di millenni sostanzialmente, e come vecchio di millenni è il binomio sesso e potere. La novità, perché una novità c'è, è che queste immagini sono state veicolate da ogni tipo di media, dal TG, dall'apertura dei TG della sera a Facebook, a qualunque altro blog, sito, giornali, quotidiani, settimanali, eccetera eccetera. Questa è la novità. E la novità sta soprattutto nel fatto che non c'era, come dire, un giornalista lì a riprendere la situazione, fra virgolette, scandalistica. Non c'è, diciamo, stato uno scoop attraverso il quale queste immagini in qualche modo sono arrivate sui media mainstream, ma di fatto tutte le, diciamo, tutta la, il reportage del fessino orgiastico della giunta Polverini era stato fatto direttamente dagli stessi protagonisti, e questo, diciamo, in qualche modo, come dire, porta sicuramente su una dimensione differente, diversa rispetto a quella che siamo soliti conoscere, insomma, anche andandola a vedere, no, rispetto a situazioni accadute in passato, rispetto a, appunto, agli scandali che molto spesso così di tanto in tanto fuoriescono e coinvolgono, insomma, esponenti dei poteri dei vari stati. Insomma, l'altra volta abbiamo fatto l'esempio di Clinton, piuttosto che, insomma, di altre situazioni in cui lo scandalo sessuale diventa un modo così per come dire, ribaltare a volte anche, no, i sistemi di potere e soprattutto i personaggi, no, coinvolti in questo tipo di situazione. Pensate adesso allo scandalo sempre sessuale che coinvolge il capo della CIA negli Stati Uniti. Insomma, queste cose spesso succedono, ma ormai la questione che chi è presente a una festa di questo tipo non fa altro che scattare foto, che ne so, produrre dei filmati, e quindi in qualche modo, come dire, dare una copertura mediatica all'evento, pur non essendo un addetto a fare questo. Diciamo, solitamente uno dovrebbe in qualche modo, come dire, avere esperienza, no, di una situazione, cioè voglio dire, se io partecipo a un'orgia solitamente lo faccio per il piacere di farlo, non per il piacere di essere così ripreso da me stesso mentre lo faccio e poi magari mandarlo online dopo 10 minuti sul mio blog. Questa è un po' la differenza che ci ha colpito e che in qualche modo così ci fa riflettere, ci fa rimettere un po' in discussione, no, quanto è stata la tradizione del rapporto fra sapere, potere, sessualità e forme anche così di esperienza personale di tutte queste quattro cose ai tempi, insomma, dei social network e dei media elettronici. Sì, perché diciamo che la novità è anche, insomma, eravamo già, come dire, abituate e sature della narrazione dei bunga bunga berlusconiani e di tutto quello che hanno comportato, però in quel caso si trattava appunto di narrazioni orali, nel senso che le immagini non ci sono, e invece qui il binomio sesso e potere si mostra, e si mostra, come dire, nella sua banalità. Nella sua banalità, che è una banalità di dominio e sottomissione di corpi al volere del re, del signore, che si circonda appunto di corpi comprati in qualche modo e mostrati come trofei. La banalità del potere in questo caso, come dire, è l'esercizio del potere stesso, perché il fatto di circondarsi, di comprare questi corpi e di mostrarli è evidentemente un esercizio di potere, ma contemporaneamente diventa anche il simbolo del potere stesso. Perché ovviamente appunto il signore, il re, il padrone circondato dai corpi comprati è simbolo del dominio del signore anche in altri campi, non solo in quello strettamente sessuale. queste immagini, appunto, noi abbiamo detto, insomma, abbiamo pensato che siano immagini appunto banali di dominio e sottomissione, tanto che in qualche modo un po' stupisce anche la povertà delle immagini, la povertà immaginifica che c'è dietro. Insomma, si tratta un po' di un baccanale dei noantri, insomma, veline, vesti corte che un po' alludono in maniera un po' così abborracciata a dee, ninfette, di un'antichità che però, insomma, appunto, lo dicevamo già prima, è ridotta un po' a un cartone animato, a un cartellone di fondo, senza nessuna profondità storica anche, insomma, no, ovviamente. E però contemporaneamente anche proprio l'archetipo del potere, l'archetipo dell'orgia del potere, tanto per citare, insomma, titoli altisonanti. Sì, il titolo di un film, e questa cosa non a caso ha una sua ripercussione gigantesca dal punto di vista, appunto, dell'immaginario, come dire, televisivo e mediatico, in quanto ci rimanda anche in maniera così lampante a tutto, a tutto quello che è stato un po' il berlusconismo, o meglio l'immaginario tipico proprio di Berlusconi come persona in questi ultimi anni. Io così vi volevo far sentire un pezzettino, fra l'altro preso da un film che penso un po' tutte e tutti hanno visto, che era Videocracy, che al di là, insomma, di tutte le questioni relative, insomma, al mondo berlusconiano più o meno interessanti, secondo me racchiude in sé un po' l'essenza, no, dello spirito del berlusconismo, che ha permeato sicuramente l'ultimo ventennio, non solamente dal punto di vista politico, per come lo conosciamo dal punto di vista istituzionale, ma ha dominato l'ultimo, penso, trentennio, ovvero da quando sono iniziate a esistere le televisioni berlusconiane, proprio per la costruzione di un immaginario collettivo che è fatto, appunto, a immagine e somiglianza di chi è il padrone, appunto, è il padrone di queste televisioni, e chi soprattutto detta come debba essere fatta televisione, appunto, dalle proprie parti. Donne prosperose e scoperte, seni grossi, benessere, luci, colori. È molto forte questa compenetrazione tra lui, personaggio, e la televisione che ha prodotto. La vita può essere meravigliosa come la mia televisione, più piena, più colorata, più squillante. I can't believe. Rieccoci nuovamente in onda, 18:54. Sempre sugli 87.9 di Onda Rossa e sempre all'ascolto di Profondo Rosa. E così continuiamo dunque questo nostro piccolo percorso del giovedì all'interno dei meandri dei rapporti fra sesso e potere. Ci eravamo fermati prima della breve stacco musicale, parlando appunto dell'immaginario costruito attraverso le televisioni berlusconiane, insomma il pezzettino di Videocracy, che era fra l'altro una breve intervista con il regista di Il Grande Fratello, ma anche di moltissime altre trasmissioni appunto del fantastico mondo di Berlusconi. Si concludeva dicendo che quella che viene presentata sugli schermi in qualche modo è una realtà fatta immagine e somiglianza del padrone della televisione, e che in qualche modo costruire un mondo che è più bello, più luccicante, più maestoso della vita stessa. Ma sono parole che, come dire, turbano, perché nel senso dichiariamo di essere completamente fuori dal mondo, nel senso che a me la TV berlusconiana, l'immaginario collettivo di questi ultimi 20 anni ha sempre colpito per la bruttezza delle immagini, a partire dal drive-in, a arrivare alle trasmissioni della De Filippi, passando per quella Mamma paccottiglia di Buona Domenica, sì, sì. Della Barbara D'Urso, insomma... È veramente, al di là ovviamente di tutti gli altri discorsi che si possono fare, devastante la bruttezza proprio di quelle immagini, e come dire, la bruttezza di un corpo soprattutto femminile, anche maschile, ma soprattutto femminile, che viene deturpato, rendendoli, cioè nel senso viene deturbato, viene del corpo femminile viene messo in evidenza, come si diceva anche nell'audio precedente, vengono messe ingrandite e messe in evidenza le parti che possiamo definire d'uso sessuale, proprio insomma la bocca, le tette, il culo, eccetera, costruendo delle donne tutte uguali una all'altra sostanzialmente, con le stesse bocche, lo stesso culo, eccetera eccetera, è proprio questo che costruisce la bruttezza, a mio parere, di quelle immagini. Quindi quello che costruisce la bruttezza è, come dire, poi una forma di omologazione, no? Di rendere tutto quanto, come dicevamo prima, un po' a immagine e somiglianza. Non uso a caso questo modo di dire, proprio perché comunque è un dettame ben preciso, fra l'altro, cioè un ordine proprio di scuderia ben preciso, anche a livello, come dire, non semplicemente di compiacenza, no? Del padrone, ma proprio per il fatto che ormai è diventato, cioè io mi ricordo insomma un modello che un po' era quello, che ne so, di appunto che facevate prima del drive-in, no? Di donne che comunque avevano la parte del leone dentro quel programma, poi c'erano i comici che in qualche modo così lo inframmezzavano, e questo diciamo modo di costruire, no, le trasmissioni è tuttora in voga, non mi sembra sia cambiato granché dagli anni 80. Infatti... Io credo che ci ricordiamo bene il drive-in perché a quei tempi non eravamo assuefatte a questo tipo di immagini. Ci colpiva, non poco. È anche difficile notarle, insomma. Ovviamente sono poi state travasate anche in Rai, anche ovunque, insomma, non è che sono rimaste sulle TV di Mediaset, però rimangono eccellenti in questo tipo di... rimangono eccellenti in questo tipo di produzione figure umane, soprattutto femminili, uguali una all'altra, figure che perdono la propria individualità e che quindi sostanzialmente diventano maschere. Sì, soprattutto in qualche modo il potere che si maschera, se vogliamo, attraverso, no, l'uniformità e l'omologazione di tutto il suo contorno. In qualche modo è come se la corte del potere fosse così omologata e inidentificabile, perché il potere deve essere nascosto, mascherato, deve comunque rimanere in una situazione di retrovia, almeno nelle situazioni che spesso vediamo, perché come dire, l'identificazione deve essere appunto solamente nella persona del re, dell'imperatore, e intorno semplicemente tutte le persone che in qualche modo fanno da comparsa. Io andrei ad ascoltare un altro estratto che avevamo preso da un altro documentario anche questo molto interessante, che si chiama appunto Il corpo delle donne, che riguarda un po' appunto i visi, le maschere e altre situazioni che in qualche modo così forse noi abbiamo descritto in maniera più sommaria, che magari questo piccolo estratto ci può servire per andare un po' a puntualizzare. Dei 45 muscoli facciali, a parte quelli necessari per masticare, baciare, odorare, soffiare, tutti gli altri servono per esprimere emozioni. Più articolato e complesso sarà il carattere, intendendo per carattere la nostra essenza più profonda, più individuale sarà l'espressione del volto. Cosa stanno nascondendo questi volti? Perché le donne non possono più apparire con la loro vera faccia in TV? Perché non c'è più nessuna donna adulta che possa mostrare il suo volto? Perché questa umiliazione? Dobbiamo avere vergogna di mostrare la nostra faccia? Dover nascondere le nostre rughe, il passaggio del tempo che lascia le sue tracce sul nostro volto, è dunque una vergogna? Ennesimo sopruso a cui nessun uomo viene obbligato. Diceva Anna Magnani al truccatore che prima del ciak stava per coprirle le rughe del volto. Lasciamele tutte, non me ne togliere nemmeno una, ci ho messo una vita a farmele. Appuntamente scattava l'applauso sulle parole di Anna Magnani, non me toccare perché ci ho messo tutta la vita a farmi venire ste rughe. Faceva molto invece impressione tutto il discorso precedente riguardo appunto all'impossibilità di, come dire, mostrare una realtà, un'esistenza, come dire, reale, perché sul corpo, i corpi delle persone portano con loro i segni della propria esperienza, proprio quella che si vuole completamente cancellare da qualsiasi vissuto ormai, anche semplicemente quando viene rappresentato in un programma televisivo. Si rimanda spesso, no, al concetto di autenticità, come se l'emozione, no, il fatto di essere se stessi sia una questione così imperante, necessaria per produrre fra l'altro una buona, come dire, una buona trasmissione, un buon costrutto, un buon spettacolo così da presentare agli spettatori, alle spettatrici. In realtà tutta la parte poi reale e concreta dell'esistenza delle persone viene totalmente cancellata. Sì, sicuramente. E come dire, abbiamo parlato insomma di questo immaginario berlusconiano, dell'era berlusconiana, ma proprio anche berlusconiano nel senso costruito e voluto da Silvio Berlusconi a sua immagine e somiglianza, così come è stato appunto scandagliato da questi due video, Videocracy e quello della Zanardo, il corpo delle donne, che fra l'altro insomma, se non l'avete visto, lo trovate su internet semplicemente insomma cercando Il corpo delle donne. E ne abbiamo parlato perché appunto siamo partiti da quelle immagini del party a cui il toga party, il baccanale, l'orgia a cui ha partecipato la Polverini e le cui immagini sono state sparate, spammate ovunque, perché come dire, lì c'è un incrocio ulteriore che viene fatto nel cioè l'incrocio è che ripetiamo insomma, chi vive quel party alla corte del PDL romano non lo vive ma lo riprende, lo riprende e lo spamma immediatamente, tanto che quando scoppia lo scandalo, peraltro anni dopo, per altri motivi, ci ritroviamo queste immagini a disposizione. Sì, e come dicevamo prima, appunto, non riprese dal reporter d'assalto, dal paparazzo, una volta si diceva di turno, ma dagli stessi protagonisti della vicenda, o meglio, a questo punto ci interroghiamo pure su una questione fondamentale che come dire, ci interessa come trasmissione, che in qualche modo così ha a cuore un'esperienza, come dire, della sessualità, del corpo, che sia in qualche modo rivoluzionaria, mettiamo così, e che molto spesso ci viene, come dire, proposto anche, poi magari ne parliamo meglio dopo, come forme di libertà e di espressione appunto della propria libertà, il fatto così di riprendere e essere coinvolti, no, in situazioni di questo tipo. Quello che ci troviamo davanti di fatto è un, come dire, una persona che anziché viversi un'esperienza orgiastica la riprende sul proprio telefonino, la fotografa, la filma, eccetera eccetera. Per chi? Perché poi anche questo è necessario in qualche modo chiederci, ovvero qual è il rimando, no, al quale queste immagini vengono appunto costruite e rimandate. Sì, anche allo stesso modo di come ci siamo chiesti, non lo so, in mezzo a manifestazioni anche, come dire, determinate, diciamo. Parli di manifestazioni di piazza in questo di caso. Di piazza, di manifestazioni di piazza, manifestazioni nostre in qualche modo, con appunto non sfilatine così tranquille, ma un po' più determinate. Il compagno o la compagna che invece di viversi la manifestazione la riprende e poi spamma l'immagine sul suo blog o su un social network, peraltro dandola in mano a chiunque le voglia, quindi anche alle forze dell'ordine, insomma c'è venuto questo accostamento immediato che magari poi approfondiremo in seguito, ma intanto la buttiamo lì. Sì, sì, fra l'altro, diciamo, questo, come dire, atteggiamento delatorio, se lo vogliamo, come dire, se ci facciamo quattro risate sopra nel momento in cui come dire, vengono additati all'opinione pubblica i baccanali della Polverini, magari ci ridiamo sopra e siamo pure un po' così felici, poi quando viene utilizzato nei nostri confronti magari per costruire un'azione giudiziaria contro i movimenti, perché comunque poi in rete abbondano, no, i filmati e le fotografie di manifestazioni di piazza o di scontri, peggio che mai. Insomma, interroghiamoci anche sotto questo punto di vista, ovvero dal punto di vista di quanto è delatorio mettere online questa roba. Anche andando, perché qui vai. Bisogna aprire una parentesi, sostanzialmente. La parentesi è sui mezzi di comunicazione di massa e sulle nuove tecnologie, cioè sul fatto che i mezzi di comunicazione di massa, io qui parlo accanto a l'esperto degli esperti, quindi dico solo due parole. Non mi pare, non so Aldo Grasso ancora. Appunto, non sono mezzi neutri. Per nuove tecnologie intendiamo internet, smartphone, web 2.0, social network, insomma tutto quello che oggi viene usato in massa anche da noi e tra noi, e i mezzi di comunicazione di massa, diciamo, sono più noti da ormai decenni, insomma, quello che intendiamo. E insomma, entrambi appunto non sono neutri politicamente, come dire, riproducono uno stesso immaginario, lo impacchettano e lo vendano nel mondo dell'intrattenimento globale. Però allo stesso tempo, mentre ne fanno un uso, come dire, ne fanno un prodotto commerciale che quindi produce lucro, contemporaneamente sono anche i vettori, i portatori di un controllo sociale interattivo, un controllo sociale che ha un'interfaccia che, insomma, noi ci dicevamo essere friendly, affascinante, easy, pop, smart e spietato al contempo. Spietato forse è la parola più giusta. È come dire che dietro a ogni tecnologia c'è una forma di potere. È inutile affermare che le tecnologie sono neutre, perché non sono neutre mai, soprattutto perché sono fatte da persone che hanno delle, e da aziende in particolare, che hanno delle, come dire, dei bersagli ben precisi, degli scopi ben precisi da ottenere, e molto spesso il lucro, quindi il guadagno commerciale, è strettamente correlato con la capacità di controllo e di controllo sociale, in questo caso delle persone. E magari rimando pure, ve la butto pure là, visto che sabato mattina ci sarà un relazionale proprio sui social network a mezzogiorno, con la presentazione di un libro che si chiama appunto Nell'acquario di Facebook, perché è dedicato nella fattispecie a Facebook, quindi avremo modo di parlare magari in maniera più approfondita proprio dal punto di vista tecnico di come funzionano queste cose. Per il momento, visto che comunque il nostro discorso è un po' più largo e soprattutto punta a una situazione in particolare, che è quella appunto della corporeità e dell'esperienza del proprio corpo, di quanto il dettame fondamentale, no, dei social network e comunque di tutto quello che è, chiamiamo fra virgolette web 2.0, ovvero dell'avvento di internet collegata a immagini, film, fotografie e soprattutto all'immissione dei contenuti da parte degli stessi fruitori in qualche modo, quindi di questo doppio legame fra fruitore da una parte e costruttore, come si può dire, non mi viene in mente la parola, comunque colui che produttore di contenuti, siano perfettamente conciliabili e sovrapponibili. In questo tipo di situazione alcuni dettami appunto delle aziende sono ormai totalmente in balia di un sentire comune, di una verità. Cioè il fatto che i social network ci dicono che noi dobbiamo essere quello che è il nostro profilo, noi dobbiamo essere quello che immettiamo in rete, ovvero che la verità su noi stessi ce la dicono loro e non ce la diciamo più noi, è la totale disintegrazione di qualsiasi forma di autodeterminazione, di qualsiasi forma anche di esperimento sulla propria realtà che parta da noi stessi. Una volta, no, si diceva appunto che è quanto mai necessario autogestire le nostre vite o autodeterminarci, almeno fra di noi compagni e compagne questa parola ha avuto, non so adesso perché me lo chiedo, un valore gigantesco. Oggi nel momento in cui andiamo a nutrire di fatto una macchina che ci chiede semplicemente di dargli la nostra verità e che quella verità appartiene al autoperpetuare di un'identità, no? Perché è quella, deve essere quella, se non la fai così, se non la immetti in quel modo non esisti, se non aggiorni quel profilo con una stessa tipologia di situazioni che in qualche modo sono sempre quelle nell'arco del tempo, non sei più te, non sei più vero, non sei più autentico, non sei più la realtà. Ma la realtà sta nel momento in cui aggiorni il blog o in tutto il tempo che rimane mentre non lo fai? È una domanda importante, insomma, perché è senza dubbio vero, insomma, che le nuove tecnologie rispondono a richieste del mercato, ma quello che rende molto più complesso il discorso è che poi sono le stesse tecnologie che costruiscono le richieste del mercato, perché costruiscono i desideri degli uomini e delle donne che comprano. Purtroppo è esattamente di questo che stiamo parlando. Diciamo che ci ritroviamo ad avere a che fare con tecnologie che sono proprio studiate per entrare e modificare i comportamenti della gente, non perché ci siamo, come dire, dietro un chissà quale grande fratello, ma semplicemente perché si è costruito effettivamente questo doppio vincolo fra come dire, diciamo prima, produttore e consumatore, e sul fatto che comunque come dire, l'alimentazione compulsiva del comportamento stesso diventa di fatto il sistema attraverso il quale poi l'intrattenimento globale viene fatto. In qualche modo, come dire, siamo noi intrattenuti da una parte a immettere contenuti, dall'altra a usufruirli quelli degli altri nello stesso tempo. E questa cosa, se da un lato, come dire, in questo caso può diventare modo per smascherare il potere, siamo sicuri che effettivamente il potere è smascherato attraverso questo tipo di situazioni? Ovvero in qualche modo c'è stata un'autodelazione, no, del potere stesso, perché ci hanno mostrato, come dire, la loro faccia più turpe, quella che dicevamo prima, quella pornografica, quella brutta, quella fatta di paccottiglia, fatta di una tristezza misera, insomma, di banalità, di appunto donne iperruolizzate, maschi iperruolizzati, proprio una banalità misera. Però allo stesso tempo, come dire, è tutta questa roba che alimenta comunque questo circuito e che soprattutto ci porta come paradigma in un luogo dove l'esistenza della sessualità e dei corpi è assolutamente assente. Ce lo dicevamo all'inizio di trasmissione, c'è tutto un guardare in macchina, c'è tutto un ammiccare a un possibile spettatore che non si sa bene quale sia, ma non c'è esperienza vissuta, non c'è corporeità, non c'è nessuna forma di liberazione sessuale fra virgolette in tutto quello che succede, eppure è un'orgia. E non può esserci, ci dicevamo, non può esserci perché appunto le nuove tecnologie come le vecchie, cioè come i più vecchi media, i più vecchi mezzi di comunicazione di massa non sono neutri, e non sono neutri anche per un fatto molto semplice, insomma, che hanno un proprietario sostanzialmente, hanno, e in genere il giocattolo assomiglia a chi lo ha costruito, non sono così liberi. Ci sono dei proprietari che in genere peraltro sono delle multinazionali, non sono la cooperativa biologica, ecco. Sono delle multinazionali potentissime che costruiscono questi mezzi, e questi mezzi quindi hanno finalità e caratteristiche che assomigliano a chi li ha costruiti e a chi da loro guadagna. Il risultato è proprio questo, diciamo, un allontanamento proprio dall'esperienza reale, dal sentire dei corpi, da quello, quello che rimane è solo un segno senza dietro ciò a cui il segno dovrebbe condurre, in linguistica si chiama significante, possiamo chiamarlo come ci pare, in qualche modo la concretezza, l'oggetto a cui il segno dovrebbe rimandare, no? Sì, una delle infinite narrazioni del Novecento che è stata stracciata da questo, se non so se esagero, ma io la vivo come tale, è appunto uno dei cardini del pensiero del Novecento, è che il segno è significante e significato al contempo, che questo non è scindibile sostanzialmente da Saussure in poi. Mentre qui no, qui c'è un segno che è solo significante. Sì, assolutamente, questa disintegrazione ormai esiste e si è propagata durante tutto probabilmente il periodo che possiamo chiamare la postmodernità, e adesso del web 2.0, che secondo me in qualche modo forse va oltre la modernità, la postmodernità, proprio perché in qualche modo il capitalismo in qualche modo ha intuito che era necessario costruire un'economia del segno, per quanto probabilmente è un qualche cosa che è andato avanti per tutto il finire del Novecento, i primi inizi di questo secolo, e che alla fine è diventato una necessità proprio per cambiare di rotta, no? Per cambiare di situazione. Un'economia appunto del segno che ha bisogno di accumulare segni per creare valore, e queste nuove tecnologie sono veramente un'immensa fabbrica sociale di segni, ma gigantesca, e soprattutto non sono neanche il portato di un'unica esperienza, ben precisa, fatta in un certo luogo. È una situazione disseminata, totalmente delocalizzata, e virale, e in mano a potenzialmente l'umanità stessa. Per cui è veramente abbastanza complessa sia da comprendere sia da in qualche modo decostruire. E dall'altra, che tutto ciò che è appunto questo valore, ma anche il controllo sociale che viene costruito attraverso la propagazione dei segni, diventa di fatto la costruzione di un mondo in cui la concretezza dei corpi e delle sue sensazioni praticamente non esiste più. Sì, nel frattempo appunto in radio l'associazione è che, dopo averci insultato dall'altra parte del vetro chiedendoci una canzone, adesso ci hanno invaso lo studio, e quindi insomma, se la pensate come queste persone che ci insultano, potete dircelo allo 06 49 17 50 o anche scriverci a profondorosa, no scusa com'è? Sì, profondorosa ondarossa.info, e se no noi comunque il discorso lo finiamo, ecco, a questo punto, anche perché io lo finirei, calza, sì. Anche, abbiamo e quindi, ancora qualche minuto. All'esperienza reale del sesso, della sessualità, del corpo, della bellezza, dei tratti individuali, somatici, di comportamento, di visione del mondo, si sostituisce una maschera, che è quella maschera di cui parlavamo prima, insomma quella maschera disegnata qua negli ultimi 20 anni da Berlusconi, ma questo non è un fenomeno certo solo italiano, insomma. No. Magari lo fosse, magari avremmo risolto in un altro modo, una maschera che è senza corpo, è uniforme, è omologata e quindi per gioco forza è eterosessista. Sì, ciò che solitamente rimanda all'uguale, all'identico, è eteropatriarcale e soprattutto è maschile nella sua accezione, di fatto, cioè l'uguale, l'uguale a se stesso solitamente rimanda al maschile. Il problema è che virtualmente tutta questa cosa di cui abbiamo parlato rimanda invece a un concetto di verità e di libertà. È come se, come dire, tutto quanto in qualche modo non assomiglia alle forme tradizionali, no, di propagazione di tutto quello di cui abbiamo parlato stasera, che poi di fatto il rapporto fra sessualità e potere fosse liberatorio, fosse in mano alle persone, fosse un così l'emblema della, appunto, delle forme di liberazione anche sessuale. Sì, infatti l'assurdo è che contemporaneamente questo tipo di immaginario è, come dire, simbolo e esercizio della tracotanza del potere, e però dall'altra parte è anche il simbolo e l'esercizio della liberazione sessuale. Per cui, cioè, poi uno si trova anche nella condizione che deve anche, come dire, mettere, non lo vogliamo dire, insomma, anche dai microfoni, che non vogliamo assolutamente fare. E penso che, insomma, in tutto quello che abbiamo detto non esiste nessuna forma di giudizio moralista nei confronti del tutte queste tipo di situazioni. Anzi, quello che auspicheremmo è realmente una situazione in cui effettivamente i corpi si fossero, cioè, se fossimo stati di fronte a una situazione in cui, voglio dire, dei corpi si incontravano per un'esperienza piacevole, avremmo parlato di tutt'altro, non avremmo fatto questa trasmissione. Quello che abbiamo di fronte è invece una situazione in cui, come dicevamo prima, si crea un'orgia di potere, si crea una situazione totalmente controllata da chi gestisce, da chi ha in mano appunto il bastone del comando, e che non va altro che autoperpetuare e a ricostruire tutto quanto di insomma, noi non abbiamo la necessità che esista o che è necessario combattere, e che spesso vederlo, no, poi anche ricostruito e riperpetuato, magari sotto altre spoglie, così anche nelle nostre situazioni, insomma, ci fa un po' strano, almeno diciamo così. Sì, ci fa un po' strano, perché comunque appunto l'autodeterminazione da questo punto di vista è il corpo nella sua materialità dell'esperienza, è il sudore, è il puzzo, è la libertà di essere diversi e diverse l'uno dall'altro, ad avere l'esperienza che forgia il proprio corpo, la propria storia, che si ripercuote anche appunto in quello che sentiamo, non solo in quello che pensiamo. Però magari, insomma, quello che è anche per noi è anche il portato che tutto ciò butta anche nelle nostre vite e nei nostri mondi. Magari ne parliamo un'altra volta, perché adesso sono le 19:22 e c'è il GR che incalza. Assolutamente, fra pochissimi minuti. Effettivamente, solo a chiusare, che vogliamo parlare anche di questo aspetto, semplicemente per il fatto che siamo assolutamente consapevoli che questo tipo di situazioni non sono semplicemente, come dire, il portato di un mondo che non ci appartiene. I rapporti di potere, i modi attraverso il quale il corpo e la sessualità sono laminati attraverso appunto i rapporti di potere, sono fatto che appartiene alle vite di tutte e tutti noi quotidianamente. Se non fosse così, non sarebbe necessario così lottare quotidianamente per autodeterminarci e per cercare di costruire, insomma, delle forme alternative di esistenza, no? Perché poi la nostra esistenza ci sta proprio a partire dai nostri corpi, anche e soprattutto dalla nostra sessualità, dal modo in cui viviamo la nostra sessualità. Quindi questo sicuramente sarà argomento di ulteriori trasmissioni di Profondo Rosa, e per stasera concludiamo qua. Diamo appuntamento a giovedì prossimo. A giovedì prossimo ci siamo, vi ripetiamo ancora profondorosa.noblogs.org e soprattutto profondorosa@ondarossa.info, perché ci teniamo a sapere che ne pensate di tutto ciò, se no ci telefonate in diretta giovedì prossimo. Questa è Radio Onda Rossa, gli 87.9, e noi ci sentiamo la prossima settimana, direi, a questo punto. Esatto. La prossima settimana e fra 5 minuti il GR. Ciao ciao.